versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 12 di marzo, sono le 16.31, primi 40 secondi, siamo in diretta agli studi dei Radio 24 qui da Milano. Un saluto e un ringraziamento a tutti. Vi ricordo l'indirizzo, come sempre, ripetitivo, lo so, però versione di Oscar @radio24.it per chiedere argomenti di trasmissione, ospiti o per proporsi direttamente di raccontare la propria storia, se ha naturalmente delle caratteristiche tale per cui è una specie di simbolo delle tante, troppe contraddizioni a cui siamo soggetti come cittadini, contribuenti, disoccupati più che occupati del settore pubblico, del settore privato. Allora, l'argomento di oggi è stato chiesto da molti nel che sono imprenditori del settore alimentare, ma non solo, non solo in quello, perché ce ne sono altri che riguardano invece tutt'altre filiere, quelle dei lavori edilizi. Riguardano, per dirvi di che cosa parliamo oggi, quindi per sollecitarvi a telefonare all'800240024 per dirci cosa ne pensate, se la cosa vi tocca direttamente, o per mandarci opinioni al 349-238-6666. Parliamo oggi di una cosa che tecnicamente è un po' complicata e che tenterò di spiegarvi, che entra in vigore con la legge di stabilità, è entrata in vigore quest'anno e che sta creando un mucchio di problemi e che nasce per una convenienza dello Stato. Di che cosa si tratta in termini tecnici? Di una modalità di inversione del pagamento dell'IVA. In termini tecnici si chiama reverse charge, che è un'inversione, per così dire, del rapporto tradizionale dell'ottemperanza degli obblighi di IVA tra chi cede un bene o un servizio e chi lo compra. Questa reverse charge nasce nella storia a fini antielusivi, ma per regolare le elusioni fiscali che avvenivano nei rapporti internazionali. Che cosa avveniva? Avveniva che con cessione di beni e servizi con altre imprese clienti che stavano in un altro paese dell'ordinamento europeo, sapete che l'IVA è un'imposta comunitaria, era possibile e molto praticato in termini di frode che l'IVA venisse sottratta a quel punto da parte dei soggetti passivi dell'imposta nel nostro paese attraverso magari finte cessioni sull'estero. E siccome nella storia europea la Camera di compensazione dell'IVA tra paesi membri dell'Unione non l'abbiamo mai creata, ecco che iniziò nella legislazione europea a essere introdotto questa inversione degli oneri dell'IVA, nel senso che nella reverse charge a questo punto a ottemperare l'obbligo di IVA è chi compra il bene, non il cedente. Quindi il cedente, chi vende, non si vede più pagata l'IVA nelle fatture. E a questo punto, come è evidente, perde di liquidità. Allora, lo Stato italiano, con il ministro Padoan, ha recepito nella legge di stabilità delle proposte che sono molto care all'ex ministro delle finanze Vincenzo Visco, che per anni ha insistito e ha rilanciato l'attenzione anche di questo governo a fini antielusivi la necessità di introdurre questo reverse charge non più nei rapporti sull'IVA intracomunitari tra soggetti di paesi diversi, ma invece applicandola a intere filiere del nostro mercato domestico. E quindi al 1 di gennaio questa modalità, che si chiama leggermente in termini diversi ma è la stessa cosa, split payment, interessa tutti i fornitori della pubblica amministrazione, che a quel punto non vengono più pagati IVA compresa e ci rimettono ovviamente liquidità, e intere altre filiere. Una è quella della grande distribuzione, quindi si inverte l'onere tra fornitori e ipermercati, supermercati e così via, di cui sono venute molte lettere di protesta, per cui facciamo la trasmissione, e anche ad altri settori come quello per esempio dei lavori edilizi, della realizzazione di opere in appalto e subappalto, dove anche lì si creano un mucchio di problemi, perché l'effetto di tutto questo è un drenaggio di liquidità liquidità delle imprese italiane. E nel frattempo, ma di questo vi abbiamo già parlato, nel 2014 lo Stato ha anche rallentato di ben un quarto il pagamento dei crediti IVA alle imprese rispetto al 2013, quindi lo Stato fa cassa, per così dire, e disincentiva rispetto al credito IVA, che naturalmente poi, come lo sapete, paga in tempi molto diversi rispetto a quello di altri paesi comunitari, dove la compensazione è la regola generale più che l'eccezione, cioè la compensazione immediata. Allora, oggi parliamo essenzialmente di questo problema della reverse charge nella grande distribuzione. Tenete conto che stiamo aspettando, si aspetta che l'Unione Europea dica se è favorevole o contraria, perché l'estensione in queste filiere non è compresa nelle direttive comunitarie. Intanto lo Stato è andato avanti e, come scopriremo oggi, si è anche premunito, nel caso ci fossero problemi, con una bella clausola di salvaguardia aggiuntiva che riguarda tutti noi per centinaia di milioni, e saremo chiamati a un aumento di imposta che sarebbe un'altra sberla sui consumi italiani. Allora, per far spiegare meglio i problemi con cui siamo alle prese su questo reverse charge, spero di avervela spiegata in termini abbastanza non tecnici e comprensibili, è con noi questo pomeriggio Ivo Ferrario. Ivo Ferrario è il direttore di Centromarca, appunto Associazione Italiana dell'Industria di Marca. Sono grandissime aziende che hanno fatto la storia e fanno la storia sul mercato italiano e internazionale dei consumi di massa, e lo ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a te, Ivo. Grazie mille per l'invito. Allora, spero di aver spiegato in termini... Hai spiegato benissimo. Ecco, io... di che cosa si tratta. Mi piaceva, però, tu hai spiegato praticamente tutto. No, come? Però no, la cosa interessante è inquadrare in che contesto, secondo me, cala questo ennesimo salasso per le imprese, no? Proprio oggi stavo vedendo i dati sul mercato pubblicitario, non so se li avete già dati, ma si parla di un meno 6,6% di mercato pubblicitario. Non è un numero che fa felici, che fa sorridere. Questi sono i dati relativi a tempo? Questo è il dato che ho visto poco fa, solo un istante soltanto, che ha diffuso Prima Comunicazione, quindi una fonte interessante, e sono i dati confronto col gennaio 2014 e gennaio 2015. Quindi non mi pare che per il momento siamo in allora, presenza di una ripresa vigorosa, visto che è meno 6%. Ci stiamo veramente togliendo la voce nel tentativo di spiegare alle istituzioni che i consumi sono un settore strategico per l'economia del paese. Quando all'estero escono i dati sui consumi, parlo degli Stati Uniti, parlo della Francia, dell'Inghilterra, c'è sempre qualche personaggio, qualche esponente del mondo della politica o dell'esecutivo in particolare, che li commenta, li conosce. Da noi al massimo parliamo noi lamentandoci dei consumi che vanno male. Questo già è un dato indicativo. Cosa sta succedendo nel mercato dei consumi? Quest'anno le vendite al dettaglio nel mese di gennaio sono andate meglio rispetto al passato. A gennaio 2015 rispetto a gennaio 2014 i volumi sono, il prodotto di marca in particolare ha fatto un più 1,3%, con una crescita invece dei volumi del grocery in generale, cioè dei beni di base, dello 0,4%. Sono rimbalzini, sono piccolissimi segnali se vogliamo, ma sono fondamentali perché, se intercettati bene, se valorizzati, se spinti, possono diventare sempre più consistenti e quindi cominciare a farci recuperare sui consumi che sono su livelli di 10 anni fa, 15 anni fa, a seconda delle scuole di pensiero, come ben sai. Abbiamo su questo percorso però due mine, non una in realtà. Una è sicuramente la reverse charge, di cui parliamo tra poco, l'altra è la famosa clausola di salvaguardia IVA, che è anch'essa contenuta nella legge di stabilità 2015. No? Eh sì. Magari diciamo due cose su questa, posso sbilanciarmi. Dunque, questo provvedimento è stato inserito e dovrebbe portare un maggior gettito a regime di circa 21 miliardi di euro nel 2018. Si basa sostanzialmente su degli aumenti dell'IVA ordinaria e dell'IVA agevolata. Sostanzialmente l'aliquota del 10% a regime passerebbe al 13% nel 2018 e quella del 22% passerebbe al 25,5% e diventerebbe la seconda più alta aliquota IVA d'Europa. Ora, noi non è che siamo contrari pregiudizialmente a intervenire sull'imposta sul valore aggiunto, non è una tendenza generale, ci si è riflettuto, se ne è parlato. Noi però diciamo non è opportuno farlo adesso. Perché? Perché i consumi che abbiamo descritto fino adesso, i dati di cui abbiamo parlato, ci dicono che un aumento dell'IVA avrebbe effetti pesanti. Qualcuno dirà, lo dicono le industrie. No, andiamo a farlo dire agli esperti di REF Ricerche, che sono un osservatorio indipendente. E vediamo quattro numeri fondamentali. Cosa succederebbe se aumentasse l'IVA a regime, se scattasse quindi questa clausola di salvaguardia? L'incremento aggiuntivo dei prezzi al consumo sarebbe del 2%, aggiuntivo a possibili altri incrementi. I consumi delle famiglie, che già sono, abbiamo visto, hanno dei rimbalzini, ma sono stati sempre negativi per diversi anni, avrebbero un crollo ulteriore dell'1,8%. Ci sarebbe una contrazione addizionale del prodotto interno lordo dello 0,8% e sempre REF Ricerche stima una perdita di oltre 150.000 posti di lavoro. Insomma, sono dei numeri che dovrebbero essere, che abbiamo trasmesso al mondo della politica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Diciamo che a loro sono noti, però è un mantra. Però il problema è che a non tagliare la spesa corrente poi hanno dovuto mettere queste clausole di salvaguardia di aumento delle entrate. Chiaro, certo, però. Allora attenzione, fammi aggiungere che il famoso refrain iniziato con Tremonti e ripetuto anche dalla sinistra, bisogna tassare più le cose, ha senso se, ci si dimentica sempre di aggiungere, se uno tassa più i consumi, dopodiché tassa meno i redditi, ma nel frattempo in cui aumentiamo contemporaneamente il prelievo patrimoniale sui risparmi, sugli immobili eccetera eccetera, aumentiamo al contempo IVA e accise sui consumi e non facciamo scendere le aliquote medie e marginali sulla tassazione dei redditi, come potete capire, cari ascoltatori, l'effetto è quello di aumentare la recessione, cioè non certo di riequilibrare il nostro sistema fiscale. Posso aggiungere una cosa? Per esempio, immagina di essere l'amministratore delegato di un'azienda, di una multinazionale che va a delle riunioni all'headquarter mondiale dove si parla di quali sono le tendenze fiscali dei paesi. Quando si parla di IVA in Italia, uno cosa dice? Aumenteranno, non aumenteranno? Abbiamo chiesto assolutamente di avere chiarimenti, no, alle varie ministeri, eccetera. E però si basa tutto su dei se. Allora, se il quantitative easing avrà effetti positivi di lunga durata, se l'economia si riprenderà, se il tasso di cambio resta favorevole, se l'occupazione riprende, se il prezzo del petrolio rimane vantaggioso, se tutti questi se si concretizzeranno, la clausola non scatterà e c'è un grande ottimismo. In realtà il vero lavoro da fare è quello di andare a lavorare sulla famosa spending review. Sì, ne abbiamo tre, ne avete parlato, tu ne hai parlato tante volte. Oggi leggo sul Corriere che probabilmente nasceranno due nuove, questo incarico sarà affidato. Oltre che a Goodyear, anche a Perotti. Io devo dire che per Perotti ho una grande stima per tutto quello anche che noi. Ha scritto per anni sulla voce.info, proprio sulle spese della politica, le spese della pubblica amministrazione. Aspettiamo e vediamo. Però ti devo chiedere di tornare su un punto, perché qui vengono un po' di messaggi dei nostri ascoltatori molto critici che dicono: ma di che cazzo state parlando? Perdonate brutalmente, sto leggendo i soliti difensori delle imprese, non c'è nessun drenaggio da parte del reverse charge contro le imprese, siete dei mistificatori. Adesso io non so, te li leggo e rispiega perché il reverse charge è un drenaggio invece per le imprese. Allora, in sostanza, con il reverse charge l'industria che vende alla distribuzione moderna smette di caricare IVA sulla fattura. Però l'industria riceve fatture con IVA dai fornitori. Questo cosa vuol dire? Vuol dire fine delle compensazioni che si possono fare sull'IVA, quindi costi finanziari. Considerando poi i ritardi di cui avete parlato molte volte a Radio 24, dei rimborsi IVA da parte dello Stato, i costi finanziari diventano importanti, si riduce il cash flow. Solo nel settore alimentare, do il dato, questo giocattolo vale 8 miliardi di euro di costi finanziari. 8 miliardi che di sono euro. Due volte i vantaggi di cash flow, cioè di liquidità, che sono stati determinati dall'articolo 62, quello che ha messo un po' di ordine nei pagamenti del settore alimentare. Sì. Questi numeri non sono numeri leggeri, cioè c'è una cosa che non ci piace, cioè l'idea che le imprese possano diventare i finanziatori a lungo termine dello Stato. È così. Il reverse charge determina un ampliamento dei crediti delle imprese verso lo Stato, che come noto è il peggior pagatore. No, però è che poi soprattutto dati di fatto. fatto, quindi non facciamo processi alle intenzioni. Perfetta. Dati di fatto alla mano del 2014, i crediti IVA erogati in compensazione sono diminuiti del 26% rispetto a quello del 2013. Quindi vi parliamo, cari ascoltatori, non perché stiamo difendendo, per così dire, l'impresa contro il consumatore, stiamo semplicemente evidenziandovi che questa norma, che nasce con il fine dichiarato di diminuire l'elusione fiscale, in realtà fa finanziare allo Stato per miliardi, prendendolo in filiere che dovrebbero essere invece incentivate ad andare meglio, e così vengono bastonate nella loro liquidità. E in questo consiste il drenaggio, che è molto molto molto consistente. Sì. Ripeto, oggi stiamo parlando della filiera GDO, c'è la filiera dei fornitori della pubblica amministrazione, c'è la filiera dei lavori edilizi e quelli delle grandi opere, quindi stiamo parlando di miliardi di roba sommate. No, ma poi c'è anche è la faciloneria che ci lascia perplessi, cioè c'è l'idea che le imprese possono adeguare le loro procedure amministrative in tempi brevissimi, come se tutto ciò fosse una cosa che non comporta oneri. Poi però, quando si parla di cambiamenti nella pubblica amministrazione, di velocizzare attività, i tempi diventano biblici, no? E questo è una cosa che non va bene, cioè l'impresa deve lavorare con delle certezze, lo dite sempre in radio, è una cosa fondamentale, l'abbiamo verificato anche col discorso IVA. Se una persona, un amministratore delegato, non riesce a capire quale sarà la pressione fiscale sui consumi, è in difficoltà, noi dobbiamo, non investe, ah, non assume. Allora gli ascoltatori devono capire anche che questi temi dell'IVA, le battaglie che noi stiamo facendo peraltro con le associazioni dei consumatori e con la distribuzione moderna, anche sul discorso della clausola di salvaguardia che sembra lontana, è nel 2016, in realtà adesso bisognerà trovare le coperture, è adesso che bisogna dimostrare che si sa fare la spending review e che si taglia ciò che non serve per non applicare una tassazione che peraltro, come mi insegni tu Oscar, finisce per pesare di più sui redditi più bassi, esatto. Perché l'IVA non è una tassa progressiva, è come regressiva, dirti, certo. È regressiva, quindi non è che stiamo facendo una battaglia da biechi industriali, stiamo cercando di fare un ragionamento che serve per dare potere d'acquisto alle famiglie, perché è chiaro che se mi cresce il prezzo del consumo per effetto aumento IVA non è una cosa positiva, quel potere d'acquisto che è impicchiata, no? Certo. Serve alle imprese ovviamente, ma serve anche alla ripresa economica, perché con questi piccoli rimbalzi di cui ho parlato prima possiamo veramente tornare tutti a investire, a fare tutto quello che serve per tenere dinamica l'economia di questo paese. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta al 16:49, primi 27 secondi, stiamo parlando di questa reverse charge, l'inversione dell'onere tra cedente e acquirente per l'IVA per alcune filiere, deliberata dal governo dall'inizio dell'anno in legge di stabilità, dichiarando di farlo per lotta all'elusione fiscale, in realtà per migliorare i conti pubblici, pescando nelle imprese da cui si drena liquidità, come se poi le imprese non dovessero compensarle con l'aumento dei costi su chi compra le cose, il consumatore finale. Oggi stiamo parlando della GDO, abbiamo con noi un direttore di Centromarca, l'Associazione Italiana dell'Industria di Marca, ma ripeto, questo riguarda altre filiere. Sappiate che se poi l'Europa dice no, scatta comunque una bella clausola di salvaguardia fiscale che paghiamo tutti quanti con le imposte indirette. Luciano da Verona, prego Luciano. Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Tutti, volevo solo dire due cose. La prima, se è vero, come è vero, che lo Stato incassa i soldi, altrimenti non avrebbero messo la salvaguardia. Certo, quindi certo. È naturale, che vuol dire che i soldi da qualche parte vengono fuori. Esattamente. 2 più 2 fa sempre 4. Se fosse pure strategia anti-elusione, non ci sarebbe la clausola di salvaguardia che aumenta le entrate nette. Non ci sarebbe la clausola di salvaguardia, per forza. Seconda cosa, io ho fatto un calcolo esatto, io sono presidente di un'associazione di piccoli imprenditori a Verona, e ho fatto i calcoli con un'azienda che lavora per la pubblica amministrazione, principalmente fa opere edili, idrauliche e quant'altro, e su 5-6 milioni che fa l'anno gli manca una liquidità di 400.000 euro. Oggi come oggi, per andare a chiedere ulteriori prestiti alle banche, perché sappiamo come paga già la pubblica amministrazione, è quasi impossibile, il che diventa veramente assurdo e si mettono in ginocchio le aziende. In più, per la grande distribuzione il problema è molto più grosso, perché fra un po' sicuramente le aziende italiane andranno all'estero per portare così direttamente senza IVA la produzione, e quindi e in quel caso all'estero incassano subito, perché dopo hanno il sistema, come ha già detto lei all'inizio, che recuperano l'IVA nel giro di massimo 2 mesi. Esattamente. Quindi, ma il governo comunque non ha voluto sentire in nessun modo le obiezioni. Vedremo la cosa come va. Gli effetti sono questi, però. Gli effetti sono di colpire pesantemente intere filiere, quando invece si dice che bisogna aiutarla per la ripresa. Sentiamo Giovanna da Bergamo come la pensa. Giovanna, prego. Sì, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ma al di là dell'impatto, volevo semplicemente dire, al di là dell'impatto finanziario ed economico che sull'azienda è sicuramente importantissimo, ieri seguivo una trasmissione, mi sembra, di Minoli, dove ha intervistato un certo professor Floris, se non sbaglio, consulente del governo, anzi, sicuramente consulente del governo, che affermava con una tranquillità incredibile che probabilmente questo reverse charge all'intervista non era un problema, perché Sconfitto se l'aveva combattuto e forse saltava tutto. E qui la cosa che veramente mi indigna sempre di più è la superficialità con cui tutti i governi fanno le leggi senza pensare all'impatto che queste leggi poi hanno sulle imprese e sui cittadini, e poi tranquillamente possono dire sì, va bene, ma abbiamo forse possiamo correggerlo. Nel frattempo le imprese hanno sostenuto soldi per adeguare i costi, per i software sostengono costi comunque, ci sono impiegati che impazziscono per stare dietro comunque agli adempimenti, per questi funzionari secondo me schizofrenici che si stanno succedendo nei vari governi. Questa è così, proprio una esternazione, ma volte. No, non è una Giovanna. Il problema è che secondo me molti di coloro che elaborano le norme fiscali, che si applicano a milioni tra imprese e contribuenti, non hanno un'idea concreta se non di come fare conti a tavolino l'aumento del gettito per riequilibrare i conti di finanza pubblica. Il piccolo problema è che non hanno una condizione diretta, se non teorica, di come davvero funzionino le imprese italiane alle prese con la mole di adempimenti tributari, amministrativi, civili, penali, e con le tonnellate di norme aggiuntive di qualunque fonte, da quella legislativa fino a quella più bassa regolamentare con le circolari, che ogni settimana si riversano sui tavoli di chi poi deve tentare di rendere adempiente l'impresa, perché sennò ti viene addosso di tutto. Questa è secondo me un piccolo particolare, la distanza tra l'economia reale e la sua complessità indotta proprio dalle regole, per carità siamo legalitari quindi vanno rispettate, e chi invece poi nelle leggi di stabilità in poche settimane dice adesso rimetto a posto i conti perché tanto la spesa corrente non si taglia. Questo è il punto di fondo. Sentiamo ancora Maria Grazia da Pordenone. Prego Maria Grazia. Sì, salve, buonasera. Io chiamo da Pordenone, sono un'amministrativa e lavoro in una piccola società che si occupa di informatica. Sì. Noi lavoriamo prettamente con il mercato elettronico e quindi con la pubblica amministrazione. Volevo dire che all'inizio dell'anno ci hanno dato questa bella notizia dello split payment. Allora, noi imprese ci siamo dovute adeguare dal 1 gennaio, certo, quindi con variazioni su programmi gestionali che comunque sono costati. Mentre adesso sto chiedendo i pagamenti alla pubblica amministrazione, non hanno ancora adeguato i programmi gestionali né alla fatturazione elettronica né allo split payment, quindi nel frattempo mettono tutto in stand by. Quindi certo, ci tolgono il 22% di liquidità subito. Però poi però, per il resto non... Dio pensa. Ecco, esatto, questa è una perfetta sintesi di come ragiona lo Stato per quello che mi riguarda. Che prevedi, Ivo? Come andranno le cose? Ascolteranno e faranno retromarcia? Innanzitutto la misura è stata introdotta con la legge di stabilità, è al vaglio degli organi comunitari per l'eventuale autorizzazione, quindi dovrebbe esserci una concessione in deroga nel caso in cui. Prendiamo atto del fatto che Fortis, che è un nuovo consulente del governo, dice che non ci sono più gli estranei per farla. E vedremo, perché oramai il tempo purtroppo è finito. Io ringrazio, sì, Ferrario, continuate con 24, appuntamento qua domani.